una caratteristica forse del nostro lavoro è proprio questa. Uno che cerca, in questo caso è riuscito a mettere in rete realtà diverse, perché crediamo appunto che in un panorama frantumato sia anche questa una cosa necessaria e utile. E forse l'altra caratteristica di fondo del nostro lavoro è che trattiamo il tema dei diritti appunto in modo globale, integrato, a partire proprio dalla convinzione di un superamento della distinzione tra diritti del lavoro, diritti sociali o ambientali o diritti di cittadinanza, insomma in quelle che erano e sono talvolta ancora oggi considerate le tradizionali ripartizioni. Per noi, stante i processi di globalizzazione economica intervenuti in questi anni e decenni, i diritti sono sempre più, ecco, e così vanno considerati un sistema di vasi comunicanti. Da qui appunto un po' l'approccio che caratterizza questo volume, il nostro lavoro. Il volume è poi al suo interno suddiviso in quattro macro aree, in quattro settori. Una appunto è quella dei diritti del lavoro e diritti sindacali, la seconda è quella dei diritti sociali, la terza è quella dei diritti umani, civili e politici e la quarta è quella dei diritti ambientali e dei diritti nella globalizzazione. Quindi sono quattro grandi aree, a loro volta poi suddivise in capitoli, complessivamente sono 18 i capitoli che compongono il volume, ma il tutto è letto appunto in una chiave molto integrata e unitaria. Di certo, riferendoci all'anno appena passato, non si può non constatare quanto esso sia stato segnato da quella che Guglielmo Epifani nella prefazione indica come spirale terrorismo-guerra-terrorismo. Ecco, di certo tutto ciò che è successo dopo, diciamo, l'intervento e l'occupazione dell'Iraq, prima dall'11 settembre, in qualche modo ha notevolmente indirizzato in senso negativo il quadro, le politiche, le geopolitiche dei mesi passati. Basti anche qui insomma un riferimento numerico e statistico che è però la dice lunga, cioè che nel 2003 sono cresciuti dell'11% le risorse destinate alle spese militari e alla difesa, sono arrivate esattamente a 956 miliardi di dollari. Ecco, questa cifra enorme a fronte, se poi la vogliamo vedere confrontata a quella piccolissima, ovvero sia 50 miliardi, che è la somma che viene investita annualmente nella lotta alla povertà, nell'aiuto allo sviluppo, insomma dice molto di quali siano le tendenze e come nell'ultimo anno in modo particolare siano diventati e quindi anche sanguinosamente più violati i diritti, a partire da quello alla vita. Ecco, insomma, quindi questo è sicuramente un dato che ha pesato e che si è riflettuto un po' in tutti i comparti, in tutti i paesi. Assieme, a fronte, ma in maniera intrecciata a questo dato, ce n'è un altro che è, anche qui le fonti sono non sospette, nel senso che sono ad esempio il rapporto 2004 della Banca Mondiale, insomma queste fonti ci dicono che è anche in crescita non solo l'impoverimento per fasce crescenti di popolazione, ma anche gli indici di diseguaglianza. Appunto il rapporto della Banca Mondiale l'anno passato ci dice che il reddito pro capite dei 5/6 della popolazione mondiale è inferiore a 1.200 dollari l'anno, a fronte ci sono invece il rimanente sesto della popolazione che ha un reddito di 26.000 dollari annui. E questo è una forbice che si va progressivamente allargando. Il post 11 settembre ha riverberato poi anche non solo in allocazione di risorse per spese militari piuttosto che per aiuti allo sviluppo, ma ha riverberato anche in un arrigidimento poi delle legislazioni anche a livello locale, insomma sotto il profilo della difesa dal terrorismo. Insomma, sul piano anche italiano gli indicatori anche qui negativi sono tanti, perché dimostrano appunto anche qui un approfondimento delle povertà da un lato, eppure paradossalmente anche una crescita delle ricchezze dall'altro. Basti dire che secondo alcune statistiche nel 2003 in Italia coloro che posseggono una ricchezza finanziaria disponibile, cioè liquida, superiore a 820.000 euro, cioè $1 milione, sono passati nel corso del 2003 da 166.000 a 188.000, quindi una crescita significativa del 13%. Ebbene, sull'altra sponda e parallelamente, i dati sempre invece relativi a quest'anno ci dicono che è cresciuto enormemente invece il numero delle famiglie italiane che vivono o sotto la linea di povertà o appena sopra, cioè a rischio di diventare povere. Oramai queste due entità assommano a circa un quarto delle famiglie italiane, quindi una cifra di grande importanza, di grande preoccupazione.